Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Beh, quella di Roma è un'amministrazione che si muove, per dirla in termini, diciamo, altamente scientifici, a capocchia, nel senso che si va lì la mattina, si fa un po' di festa. Che spettacolo, che spettacolo. Who plays it cool by making this world a little colder? Ora provate a immaginare l'equivalente della maestrina supponentina a Palazzo Chigi. Cioè provate a immaginare Luigino Di Maio, presidente del Consiglio. You have found her, now go and get her. Ora sarà che io ho una certa età, a volte mi viene voglia di prendermi la residenza in Svizzera, a Lugano, dove c'è Mina, un ambiente rilassante, riposante. Ma possiamo vivere in un paese che è diventato a tal punto un circo equestre da poter addirittura immaginare che Luigino Di Maio possa fare il presidente del Consiglio? Ora mi si dirà anche Mozart, da giovanissimo ha prodotto dei capolavori. Ma era Mozart, non era Luigi, ma capì. E vabbè, cari ascoltatori, ormai nella sua TV, che non è proprio sua, però va lì, fa i suoi proclami, l'Ira TV. Beh, è una TV di cui vorrei essere direttore. Cioè, sei lì, c'è il giornalista mandato lì da De Luca. Il giornalista ovviamente muto, che parla lui, De Luca, e sentenzia. Effettivamente Di Maio non mi sembra Mozart così nelle fattezze, però. Allora, cari ascoltatori, è lunedì, forza! Anche le mega venerdì. Anche le proprie lunedì, no! Dai, su, dai, che come ha detto Peter Bescapè, abbiamo un Milan da scudetto, signori! Che c'è sempre un simpatico burlone del matrimonio trovato alla testa, eh. Sinistro all'incrocio, Young lascia partire il cross, dai. Arriva Paletta, primo gol con la maglia del Milan. La domanda è questa, che ho veramente da ieri, e posso chiederla subito a uno che è grande esperto di calcio, nel senso che lo segue con passione: ma una vittoria con gol di Paletta può essere omologata ufficialmente dalla Federcalcio oppure no? Marione Adinolfi, tu secondo me ne sai qualcosa. Ho una vittoria. 6-7 minuti a dire ha segnato Paletta. Non ci credo, ha segnato. Anche perché mi ero preparato tutta la, diciamo, preguzzavo. Chiaro. Siamo a meno. Fatto 3 gol in trasferta, poi hai preso 3 gol in casa. Ma è fantastico. Ma hai visto? 3 gol in 8 minuti. Sembravamo. Guardavo mia figlia di 6 anni, guarda, dice, ha segnato Paletta. Paletta, e tu ti aggiravi così, ha segnato Paletta. Ma incredibile, 3 gol in 8 minuti. Sembravamo Liverpool. signori, sembravamo il Liverpool. La Juve ha fatti 3 in 5. Vabbè, ah, vabbè, ma vedi, vedi l'arroganza degli Juventini. Ma dovete sempre 3 in 5. Oh, mamma mia, ragazzi, valgono sempre 3 punti. Se valgono sempre 3 punti, o voi 6? Perché voi fate le cose, no, sempre 3 punti. 5 di vantaggio sul Milan. Adesso mi sembrano pochi, no? Pensavi di essere, vedrete adesso con lo scontro diretto andiamo a meno 2 tra un po' e poi vabbè, siamo, apposta, lì. Allora, sì. Siamo lì. C'ha ragione Bescapello. Come capite, abbiamo Mariona Di Nolfi in grande forma. D'altronde lo scudetto è già stravinto, si sa. L'importante è puntare tutto sulla Champions League, signori. Tipo sul Barcellona, tipo sul Manchester City, tipo, non lo so, su qualcuno, il Real Madrid, il Bayern Monaco. Basta che non vinca la Juve, si sa. Va bene, allora insieme a Mario Di Nolfi, Mariona Di Nolfi, eccolo qua che torna. C'è il nostro presidente preferito, il quasi omonimo, il nostro Carlo Rienzi, presidente del Codacons. La Salernitana ha perso. La Salernitana, anche la Prosesta ha perso, sempre questo. Vabbè. Ma eravamo primi, e, insomma, questo ci costa la testa della classifica. A Verbania, una triste trasferta a Verbania, finita 2-0. Che il gelo è calato sulla trasmissione. Vi ringrazio per partecipare a questo momento di dolore. La sconfitta della Prosesto, tu Marione la segui ovviamente. Sai? Come no, ma soprattutto il Verbania. Sicuramente. Riconosci i colori sociali della Prosesto ovviamente. Uno che saranno rossi e neri pure questi. No, no, sono bianco, siamo i bianco celesti, va bene. Da Lazio siete, ho capito che dici. Vabbè, no, non proprio bianco azzurro, i bianco celesti, bianco celesti meglio. Va bene, dai, apriamo il Parlamento. Forza, qua c'ho anche ragazzi, la tosse. Se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io bene, ma... forza, allora, gente, adesso Marione ci spiegherà tutto, perché non se ne può più di questo referendum, diciamo la verità, non se ne può più, e siamo solo al 3 di ottobre, mancano 2 mesi precisi, non se ne può più, e giustamente Nando Pagnoncelli fa il suo sondaggio sul Corriere della Sera e ci svela che un italiano su 10, solo uno su 10 di quelli sentiti, sa bene di che cosa stiamo parlando. Ma questa è la cosa più divertente, infatti il dibattito lo fai con Renzi, Zagrebelsky, ecco. Con quelli che ne capiscono le cose che dice Zagrebelsky, ma magari fossero uno su 10, poi infatti, è proprio tutto infatti surreale. In realtà il dibattito vero lo devi fare adesso sul fatto che ti cambiano la legge elettorale in corso, questo modifica, a parte i tuoi sonni che devi andare a studiare come funziona la legge elettorale, ma il dato fondamentale è che come la riscrivono e tutta la propaganda di chi dice ah, questa è la legge che costruisce il totalitarismo in Italia, come si modifica rispetto alla modifica della legge elettorale modificata? Come la riscrivono? E si può fare adesso, a ottobre, tutto nel mezzo della campagna referendaria, una cosa legittima? Non lo so, io ho letto Il problema è che non si capisce. Io che sono avvocato, ma che cosa? Il referendum politica, o la legge elettorale? Ho seguito questo dibattito tra Grebeschi e Renzi e mi sono reso conto della difficoltà per una persona qualsiasi, a parte lo share è stato bassissimo e poi hanno esaltato questo share alto, vabbè, a 1.800.000 per una cosa del genere con il Presidente del Consiglio mi sembra un po' poco, comunque vabbè. Ma perché ha vinto, no, ha vinto, lo sai che ha vinto quell'altro tale quale, quella trasmissione che facevano ben due altri programmi hanno vinto come pubblico rispetto a quello, no? Ma perché la gente non capisce? Infatti bisognerebbe partire dall'ABC, si fanno i dibattiti tra persone che sanno già tutto, dando per scontato le cose, e non quando, si capisce niente. Quando invece Pagnoncelli ci dice che un italiano su 10 che andrà a votare sa di che cosa parliamo. Ce ne sono 9 su 10 che non sanno neanche l'argomento, il tema del referendum. Cosa... Infatti, allora bisogna tirar fuori dalla legge nuova i concetti fondamentali, bisognerebbe riuscire a dire la verità su a cosa tende, cioè per esempio una cosa che gli italiani possono capire è tende a dare molto potere a chi vince le elezioni nel senso che poi possono fare quello che vogliono, sì o no? Oppure no? Per esempio, La cosa principale è gli organi di garanzia. Quello che adesso noi stiamo analizzando come cosa, per fare poi un seminario tra di noi. Eccola, sapevo. Sì, perché sennò non capiamo mai. Che cosa? Gli organi di garanzia, cioè la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, le autorità indipendenti. Facciamo una simulazione. Con il referendum approvato, cioè con la legge approvata, saranno comunque nelle mani del dei politici vincenti o saranno decisi dal complesso del Parlamento? Questa è una bella domanda. Marione, sai tutto tu. Perché questo è l'elemento fondamentale. Che dici, Marione? Ma non cambia granché in sostanza. Poi soprattutto quello che viene posto ancora adesso, anche da questo intervento, è il nodo della legge elettorale. Perché la legge elettorale, per come è scritta adesso, consegna una maggioranza molto ampia all'eventuale vincitore di un ballottaggio tra le due liste principali, che porta a casa 340 deputati di questa Camera, che diventa l'unico vero luogo politico del Paese. Dal punto di vista degli organismi di garanzia, penso alla Corte Costituzionale, la nuova Costituzione prevede 3 giudici costituzionali eletti dalla Camera, 2 giudici costituzionali eletti dal Senato. Sicuramente, se è una legge elettorale che dà questa ampia maggioranza a un unico partito, perché ricordiamo che oggi il premio va alla lista, quell'unico partito detiene una buona possibilità di dominare anche le istituzioni. Eh beh, certo, visto che sono... Cosa significa questo però? Che nel momento in cui tu stai andando a votare, devi sapere bene qual è la legge elettorale che sottostà a questa riforma. Ma ancora, ma se non si riesce a fare, ma non se non si riesce a fare prima la legge elettorale, poi forse questo italico è incostituzionale, pende un giudizio della Corte Costituzionale. Quindi c'è, ma di parliamo. Questi sono i temi reali, capito? Poi dopo gli elementi di garanzia oggi, se tu li leggi, non ci siamo. Ragazzi, però io oggi ho visto una pagina terzi, su... non due terzi. Vabbè, ma io oggi garanzia, sono nominati da 2/3 del Parlamento. Sarà così? I 2/3 non ce l'avranno mai. Ragazzi, stiamo riscrivendo la Costituzione alle 6:41 del mattino. Io vi vorrei richiamare all'ordine. Oggi ho letto una pagina, ho visto una pagina sulla come cambierà l'Italicum sul Corriere della Sera. Mi è venuta una nevralgia fulminante. Ma sarà anche che li leggo alle 5:40. Voi capite che alle 5:40 è un po' dura. Però vi voglio fare sentire Renzi, la polemica su Roma. Renzi se la prende con la Raggi. Certo che Renzi, adesso voglio dire, ma tutta la questione Buzzi, oggi il Fatto Quotidiano ritira fuori le cene Buzzi, una cena in cui sono capitati per caso, per carità, Poletti, Buzzi, Casamonica in campagna elettorale, e adesso quelli che fanno gli affari con Mafia Capitale chi sono? Renzi. Pensate che cosa sarebbe potuto accadere se fosse venuto fuori, come è venuto fuori, che la grande novità, la grande svolta sui rifiuti è stato consegnare il settore dei rifiuti a una donna che è totalmente collegata agli uomini chiave della vicenda Mafia Capitale. Eccola qua, caro avvocato Renzi. Io vedo solo la monnezza sotto casa, questo è quello che conta. Se ci fosse stato Renzi sindaco, parla più delle buche. Mamma mia. Ma una cosa vergognosa, abbiamo fatto tutta una campagna elettorale con le buche. Lo so, è andata male sta campagna elettorale. Qua abbiamo tra l'altro due candidati sindaco, attenzione. E che caspita, se eravamo noi due i sindaci, avevamo almeno tappato una decina di buche ciascuno. Ma cosa c'è con Adinolfi sindaco, con Renzi sindaco? Peggio di così non si poteva fare. Guarda, i romani non so, si staranno riprendendo, perché la condizione attuale della città è drammatica. E oggi, visto che hai fatto la stessa stampa, ci leggiamo su Repubblica il dato che c'è 1 miliardo di fuoco secco. È vero. Su cui questi non sanno mettere le mani, solo della gestione della città. No? Insomma. Se Roma continua così, Roma è una città in default, cioè per come sono le cose in questo momento il sindaco dovrebbe portare i libri in tribunale, questa è la verità, e non sa dove mettere le mani, per cui io continuo a dirle, bellissimo slogan dei 5 Stelle, onestà, onestà, ma non sapere veramente dove mettere le mani, come decide di fare un'operazione di un chirurgo onestissimo ma che non sa usare il bisturi, non è una grandissima effettivamente città. Poi lo vedremo, c'è questo miliardo di buchi nei conti delle partecipate, miliardo, sapete, in un anno ho capito, ma sono qua da 2 mesi, non avevamo detto prima, non hanno fatto niente. Bisogna dichiarare il fallimento, come è stato fatto per altre città, e chiedere al ministro degli interni di dare poteri al commissario, che può essere anche la Raggi, di diminuire gli organici e fare una serie di attività sul bilancio, che è come si fa nei casi di fallimento, cioè se no non ne escono. Qui manco trovano un assessore, quell'altra poi non se ne vuole andare. Ma adesso l'hanno trovato, cioè questo Mazzillo, tra l'altro, hanno professor trovato. Mazzillo, commercialista, dottore commercialista, oggi racconta ai giornali che in realtà non sarebbe neanche iscritto all'albo. Capito, che roba, ogni questo... volta facciamo così. Questo... questo stava con la lista civica di Veltroni. Questo... sì, vabbè, allora adesso che sia stato con un ex, perché sia stato un ex PD, non è, non so se questo, però dottore commercialista, professore, insomma, ha dei... insegna, ma anche, ecco, c'è questo mistero, dottore commercialista, ma non è iscritto all'albo, non risulta nessun Mazzillo nell'albo dei commercialisti, questo scrivono oggi i giornali. Però noi dobbiamo andare un attimo al traffico, sai Marione che tra poco, dopo la segreteria, c'era anche uno dei nostri ascoltatori dall'estero, perché ho iniziato a chiamarli. Non è un latitante, assolutamente, ci dirà chi è tra poco. Mina, è da anni sto sul posto del traffico, va? O si fanno le Olimpiadi, o si fa il ponte, perché i signori di Roma devono fatturare e devono rubare. Ma visto campionatore, ave o yacht privato, ave l'aereo jet privato, che minchia se ne va a fare il duro ponte, eh? Non facciamo il ponte perché c'è la 'ndrangheta. Allora non facciamo proprio nulla perché c'è la mafia. Bene, a me sta bene. Io sono leghista, chiedo la successione da almeno 20 anni, non è un problema. Anch'io ho avuto una tessera del PD, non ve l'ho mai detta. Mi sono iscritto a Zacchè. Prossima. Va bene comunque, è un assessore di ripiego. No, non è di ripiego, non lo so. Chiedetelo alla Raggi, lei che decide. Effettivamente Beppe Grillo, vedi, caro Marione, ha tirato fuori questa storia, anche lui è stato iscritto al PD. Ti ricordi che voleva fare le primarie, si era iscritto in Sardegna? Sì, per scalare il PD, e quindi anche lui è un iscritto al PD, di fatto. Anche Adinolfi è stato nel PD, non è che essere nel PD è una colpa di per sé. Nello statuto del 5 Stelle c'è scritto però che non bisogna aver essere stati eletti in realtà, però no, eletti tutto ormai, vabbè, eletti dai, un'altra cosa, insomma. Comunque mi sembra più grave il fatto che non sia commercialista. Ma più grave è quell'altro amico di Zaia, era candidato alla lista di Zaia, hanno fatto pure uno perché non sapevano dove pescare tra i propri. Questo è interessante, tra l'altro. Comunque, attenzione, perché Colomban pare, siccome abbiamo parlato dei rifiuti e secondo molti la Muraro ha i giorni contati davvero, pare che l'interim dei rifiuti vada proprio a Colomban. Evviva! E beh, perché insomma le partecipate. Un autoctono romano proprio. Mamma mia, le polemiche! E allora, cioè, vuoi l'assessore de Roma a Roma? A Roma siamo 3 milioni e rotti, insomma. Ma ho capito, ma che vuol dire questo? Cioè, Rienzi, dobbiamo avere un romano de Roma come assessore? Allora prendiamo tedesco. Ma no, magari funziona, prendiamolo tedesco. Si prende dei romani che collaborano perché devono andare a vedere che cosa succede in questa città. Noi avevamo suggerito addirittura il giudice Guariniello, che poteva essere una persona competente. Ma quello faceva una causa dietro l'altra. Adesso che è in pensione è una persona che poteva andare bene. Guariniello. Anche se poi occorrono una squadra di persone dentro la città, come avevamo detto noi, che verificano e recepiscono le lamentele dei cittadini per intervenire immediatamente. Rienzi, non lo so. Non si è fatto niente di tutto questo. Era un programma momento, perfetto. Purtroppo. Ma bastava diventare sindaco, Rienzi, io me lo ricordo il programma, perfetto. Ma no, bastava prenderlo, basta prendere questi programmi, questi progetti e farli, non c'è bisogno di andare a fare il sindaco. Ma noi, per la gioia di Marione Adinolfi, abbiamo uno dei nostri ascoltatori che ci segue dall'estero con grande pazienza, con grande passione. Con il nostro urlo, oggi vogliamo andare a Londra, credo, dove c'è Giacomo. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ragazzi, a Londra ti abbiamo sbrandato, sono le 5:50 del mattino, cosa ci fai? Sì, è una vita dura per seguire 24 mattino, quindi Ma onore, mai in podcast, sempre dal vivo. Ti vuoi, vuoi confortare Mariona Dinolfi, dire che non sei un latitante a Londra? No, espatriato per ragioni fiscali. Giacomo. Non sono latitante, almeno non lo so. Non lo so ancora. Non lo sai. Che però, fai a Londra? Non dire il cognome, Giacomo. Che fai a Londra, Giacomo? Io mi occupo di appalti pubblici all'interno di una banca di investimenti, quindi oggi sono proprio lo faccio per una banca di investimenti pubblica, nel fantastico senso che, quindi... fantastico. Ovviamente di che si parla lì? Qua parliamo di referendum, mi sembra che lì si parlerà della Brexit, no? C'è la May che, oggi è una giornata facilissima perché il referendum, presenti, passati e futuri, quindi Brexit da tutte le parti, e ha fatto questo discorso alla convention a Birmingham, dove ha ribadito l'ovvio un'altra volta, insomma. Ma si sente questa Brexit? Cioè ha veramente fatto degli effetti? Adesso vedremo, perché sarà un processo lungo, ma è cambiato qualcosa? Londra in realtà è un po' un'entità a sé stante. All'inizio, le prime settimane, c'è stata una botta anche un po' psicologica sulla popolazione di Londra. La sterlina è calata, poi è un po' risalita, però adesso ci è stabilizzato il tutto. Si vedrà quando incominceranno a conoscersi i dettagli e quando incomincerà la vera negoziazione, vero impatto. Per adesso, insomma, l'Inghilterra non è cambiata, si arriva e si entra e si esce dal paese come si faceva prima, però vedremo dopo. Intanto Giacomo, ti mandiamo un grosso abbraccio, è lì a tenere alta la bandiera italiana, vedi Marione? Tenere alta la bandiera italiana. Dormi, Giacomo, ma che te frega, se sta tanto bene a Londra, ci svegli 24 mattino alle 5 di mattina. Vedi. È ancora buio, posso tornare a dormire. Sì, Giacomo, puoi andare a dormire, adesso c'è il giornale radio, poi dormi un quarto d'ora e poi svegliati per la rassegna stampa. Il giornale radio i colleghi capiranno, lo abboniamo, poi dopo lo riascolti in podcast, puoi farti un pisolino di un quarto d'ora. Va bene, grazie. Se non so dei prezzi, non li vogliamo. Aspetti, era allegrissimo, sono le 5:50. Si è svegliato. Ma normali, ce ne vai uno. Si è svegliato a Londra per noi. La radio del mattino, dai. Io però vorrei sapere da Rienzi, voi avete un'ossessione. Che ci avete contro Semprini e Politics? E volevate fare un ricorso per chiudere Politics. Adesso volete fare un ricorso per chiudere il Grande Fratello, perché dicono un po' di sconcerie. Insomma, metti lì Bettarini. Ma non se ne può più, ma non è possibile. Ma che vi frega? Ma come che vi... Ma l'avete sentito le cose che dicono? Ma che no, fanno? Io no, perché non me ne frega più niente. Ho capito, però c'è tanta gente, anche giovani, che si vedono questi programmi, ma un minimo di educazione. Questo non vale solo per la RAI, andrebbe guardato un po' dentro tutte le case. L'educazione perché... al Grande Fratello, ma quando mai? Ho capito, ma non voglio ripetere qui le frasi che sono state dette e i commenti che sono stati fatti. Ma non è che il gusto dell'orrido che c'ha l'italiano, che vuole sapere pure il colore delle mutande del protagonista del Grande Fratello possa essere sempre soddisfatto, ecco, questo non deve essere soddisfatto. Allora diamo un senso anche a queste trasmissioni, i nostri interventi sono per sollevare un dibattito e far capire, forse anche soprattutto alla gente più che a chi le organizza, che le cose, che ci si può spostare su altre trasmissioni dove si apprende qualcosa, si vede il mondo, e non si sentono le parolacce. La TV pedagogica del maestro Manzi, che bei tempi. Vabbè, no, io qua mi devo fermare. Marione, non abbiamo fatto in tempo a parlare della teoria gender, visto che il Papa si è scagliato, però ha detto che i trans e i gay li accoglierebbe, come li accoglierebbe Gesù, ma sono sicuro che tu a Radio Maria ci renderai edotti sul punto. Dai, intanto ti ringrazio, ti abbraccio, siamo a meno 5, stiamo arrivando, caro Marione, stiamo arrivando. Voi della Juve, cominciate a guardarvi le spalle, perché stiamo arrivando. Dai. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Anquo, Alessandro Mina, e leggerai i giornali come uno che legge i giornali.